24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Oggi in segreteria politica abbiamo analizzato anche la richiesta di aderire ai gruppi Lega di diversi deputati e senatori, anche dal Movimento 5 Stelle, anche dall'NCD e anche da Forza Italia. Che Renzi è più bravo e più appetibile. Noi siamo più piccolini. Non è possibile che il simbolo della Lega Nord sia affiancato a quello dell'NCD Alfano. Lo strappo voluto da Renzi, Forza Italia torna libera di fare opposizione a 360 gradi. L'Italia non ci sta, Italia sì, Italia no. Ci è stato detto che Forza Italia ha deciso di essere all'opposizione. Questo ovviamente non sta a significare che ci sono accordi domani mattina duraturi o perenni a livello politico, a livello nazionale, a livello locale o ad altri tipi di livello. Italia Prot, la terra dei cachi. È già stato rinominato il patto degli spinaci. Non ho ben capito perché in genere questi patti si chiamano dal menù. Berlusconi, aveva ragione Repubblica allora, Berlusconi, altro che Salvini, incontrerò Berlusconi. Berlusconi l'aveva già invitato domenica sera in gran segreto, si sono visti a cena e hanno siglato il patto degli spinaci come braccio di ferro per diventare forti. Poi dopo, al solito, Berlusconi ha detto Ale, rifatta l'intesa a 360 gradi con la Lega, e Salvini ha detto mo adesso aspettiamo, Italia sì, Italia no. Chi lo sa, ma la politica si muove tutto attorno a queste strane alleanze, complotti, persone che si riuniscono e persone che se ne vanno via. Berlusconi, racconta la stampa, ha detto il dittatorello di Palazzo Chigi capirà che significa avermi tradito. Se famo tu spaghi, Italia sob. E poi ci sono quelli che vanno di qua, quelli che vanno di là, le transumanze come le mandrie, no? Che cambiano casacca, i parlamentari che cambiano partito. Il senatore D'Anna giura. D'Anna è quello di Galla, quello che ha fatto quell'intervento recente spettacolare, magari la recuperiamo sulle presa per il culo, no? Le facce da culo in Parlamento. D'Anna ha detto ci sono 5 di Forza Italia già pronti a tradire al Corriere. Il Corriere dice chi sarebbero? Ma molto semplice, tutti gli amici incappucciati di Verdini. Incappucciati? Che ho detto? Incappucciati. Italia sì. Vabbè, che dobbiamo fare? Questo è quello che offre la politica, in questo momento. Va bene, questo è 24 mattino, come sapete sono le 6:32 minuti, sveglia debosciati, debosciati d'Italia, dai lo schema Allegri, dai lo schema Allegri, su, dai. Siamo qui con Lorenzo Nespoli in redazione, oggi in regia c'è Carmelo Lauricella, che saluto, che aprirà il Parlamento tra pochissimo, eccolo qua, possiamo aprire, cornetti caldi per tutti. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Caffè della Boschi offerto, saluto subito Alessandro Giglioli, che ritrovo con piacere. Buongiorno, tutto a posto? Come va il tuo piovono rane? Come va? Ma siamo vivi, siamo qua, stiamo bene, fa un po' freddino, aspettiamo primavera, fa freddino dove? A Roma, ricordiamolo, a Roma fa freddino. Fa freddino pure a Roma. A sto giro qua. Mi sono abituato. abituato ormai, io qua da 12 anni mi sono preso i climi caldi. Ah sì, tu che disconosci il tuo sindaco, perché quando ti ho chiesto un giudizio su Marino dici ma io sono di Milano. Sì, ho fatto così, è vero, come Ponzio Pilato. Come Ponzio Pilato, effettivamente Ponzio Pilato. Un po' così. Sono stato un po' così. Va bene, caro Giglioli, ti voglio presentare la nostra, la grandissima, la direttorissima per sempre. Sarà l'aurora. Era da un po' che non... Una volta te l'avevo messa, Aurora Lussana! Buongiorno Milan, un caro saluto a te, un caro saluto agli amici di 24 mattino. Non mettermi su le rosa mazzotti a quell'ora qui che mi si scombussolano gli ormoni, eh. Ah, ma non mi salutala. Non ti saluta, Giglioli. Giglioli è partito subito offesissimo. No. Scenata di gelosia di Giglioli alle 6:34. Giglioli, sposata, non so adesso. Non sei ancora sposata, stai tranquillo. A giugno. A giugno queste cose. No, bisogna vedere se non mi bocciano al corso per fidanzati, sì. Perché già ci sono un po' di tensioni. Però sì, vabbè. Esatto. Poi, soprattutto, comunque, se ti presenti dicendo che Ramazzotti ti fa scatenare l'ormone. Insomma. Penso che sia l'unico romano che insomma mi scateni questa tempesta. No. Ah, no, proprio i romani no, eh. Amici di Roma, sappiate che con. A vivere a Milano anche lui. Con l'Aurora Lussana siete spacciati. Niente da fare. Sei preoccupato, Milan, Sei preoccupato per la lista Falciani, vero? Ah, no, perché no, io assolutamente... Perché dopo tutto quel tormentone che ti ha fatto, dei tuoi urini in Svizzera, il tuo collega... Sì, Mauro Beazza. No, io non ho un euro in Svizzera, ne ho pochi. Vediamo quando esce la lista. Ma vediamo te che abiti più vicino alla Svizzera di me. Ma io oggi c'ho i miei amici disperati, perché oggi scade l'IMU agricola, bisogna pagare. Lo so. Il di pagamento, pensavo che c'erano i problemi della gente che conosco io, poi non so se... Conosci. Ma io guarda che non conosco nessuno, cioè nel senso probabilmente conosco qualcuno che ha i conti in Svizzera ma non me lo dice, non sono io. Ma ha fatto particolarmente girare Diego Forlan, devo dire, perché non solo ha rubato lo stipendio. No, Diego Forlan. Ma pure nascosto. No, veramente Diego Forlan, non l'ho letto. Diego Forlan. Questo è veramente lo scandalo della lista. Diego Forlan, è vero, è passato all'Inter, quanti danni ha fatto Forlan? Adesso, l'ho già detto io, non verrà mal. No, quanti danni ha fatto? Tre partite e mezzo. Tu che sei interista. Notevolmente dannoso. Adesso però è andato a far danni in Giappone, avrà nascosto i soldi. E quanti soldi si è messo lì alla HSBC? Non me la ricordo, però diciamo è nella lista anche. Vabbè, ma perché Aurora perché sei subito partita? Guarda che la prima gallina che canta, come si suol dire. Voglio vedere nomi e cognomi lì. Ma poi i leghisti preferiscono la Tanzania, si sa, dai. Eccolo lì, subito. La coltellata di Giglioli. Leghisti. Ve la prendete sempre con questo movimento popolano e popolare che è la Lega, che vedi adesso ha costretto anche il Berlusca al patto degli spinaci. Qualcuno alla barra. Adesso ci deve dire sì, il patto degli spinaci, deve spiegare tu. Ma perché? Per il menù? Il menù? Pare che sai che di solito c'è il menù. Io non sono mai stata ad Arcole. So. No, neanche una cena elegante? No, mai. Mai entrata da Arcole. Mai. Però se c'è bisogno, guarda, io mi informo. Però pare proprio che ieri sera gli abbiano dato questo filettino, domenica sera, questo filettino con gli spinaci come contorno. Anche il solito menù tricolore. Ragazzi, c'è Giglioli, i tempi di crisi, filettino ragazzi, con spinaci e a casa finettino con spinaci. Io guarda, gli avrei fatto almeno un rognone trifolato, una robina un po' più. Ma infatti, ma c'è l'Aurora qui che ci dà le ricette tutte. Ma porca miseria. Ma poi lo spinaccio. Sì. Spinaccio noto perché produce soprattutto. Che cosa? Cosa produce lo spinaccio? Il più grosso produttore di feci. C'è il patto di spinaci, tutto in bagno ad Arco. Non ho problemi di pubblicità. Siamo arrivati così. Allora, comunque, intanto. Posso dire solo una roba su quella cena qui? Dopo, appunto. Si dice dalle mie parti. Sì. Dopo 7 fette lì ha capito che era polenta. Cioè, dopo 7 fette ha capito che era polenta. Cioè, Berlusconi alla fine è arrivato a capire quello che la Lega gli dice. Però attenzione, perché Confalonieri titola oggi La Stampa, dice: è scettico, fai come credi ma tieni le aziende alla larga da questo casino, gli ha detto. Sorride, tanto le aziende sono sue, Aurora, mica no, ci mettete no, il culo voi no, con no, le vostre di aziende. No, ma ci auguriamo che rimangano floride, soprattutto a tutela dei lavori, di tanti lavoratori. No, certo, però vabbè. Giglioli, come lo vedi questo patto? Ritorna l'alleanza Salvini-Berlusconi, anche se Salvini con Alfano non si metterà un certo po' tempo. Ne avevamo parlato l'altra volta, cioè, Renzi, se devo fare un discorso serio, 5 secondi, sì, Renzi è una grandissima forza centripeta, questo si vede, no? Cioè tutti quelli che si dice salire sul carro del vincitore, ma non è solo quello, è che ha fatto un partitone d'establish, un partito tenda, come lo chiama proprio un mio amico renziano, un partito tenda tutti sotto la tenda. Tutti sotto la tenda, Gennaro Migliore all'Irlanda, come i beduini, mamma mia, ma straordinari beduini, ma scusa, io sono stata un popolo meraviglioso. No, certo. È a casa loro. Vabbè, però credo che questi non siano nomadi abbastanza alti, nel senso che stanziano sull'establishment che viene garantito dal partito tenda, dal partito della nazione. Contemporaneamente è anche un partito centrifuga, perché tutti quelli che non sono attratti da, cioè, o di qua o di là, alla fine Renzi è una personalità talmente trascinante nel bene e nel male, infatti stanno andando tutti di qua, Berlusconi è stato indeciso fino all'ultimo, secondo me lo è ancora, ma certo appena Renzi gli fa capire che è un emendamentuccio che lo aiuta in qualche cosuccia, secondo me lo, ma non solo, c'è stata questa frase pare di Renzi a dire se ne pentirà, mi ha molto colpito, Aurora, se ne pentirà, vendicativo. Ma è vero che, secondo te è vero che Berlusconi l'ha definito il dittatorello di Palazzo Chigi? Così dice la stampa, eh? Chiede a Salvini, ma insomma, ma alza il telefono. Gli aveva detto mi somiglia, adesso dice il dittatorello, le due cose sono coerenti, no? Attenzione. Adesso vediamo, dai, se si mette a fare opposizione Forza Italia oppure no. Vediamo. Vediamo. No, ci abbiamo che cosa? Ostellino abbiamo recuperato? No, Vincino. Chi è? Vincino, no. Sentite una di Vincino che ci ha detto qualche giorno fa, eh. Perché Renzi va a sbattere, secondo te? Ma perché fa una minchiata dopo l'altra? Ma no! Si sente un cazzo e mezzo, si è allargato troppo. Senti un po', ma com'è che si sente? Prima hai detto, si sente un... Un cazzo e mezzo. Questa è la lettura di Vincino. Si sente un cazzo e mezzo. Priapismo di ritorno, va bene. Sì, va bene. Mi scrive un ascoltatore e dice: se metti Aurora Lussana su Google ti dà come risultati, oltre al resto, due belle immagini. Immagini di chi? Che dice? Concludeva il messaggio con qualcosa, è proprio una gran... Vabbè, insomma... Ma con quasi 40 anni dalle mie parti, una donna dopo i 30 è da buttare via. Ma ascolta, ma ti stai per sposare, ma... Ma Giglioli, ma qui c'è una lettura, cioè, da buttare via, infatti mi sposo. Pensa come sarà contento il... Quasi... No, sono i famosi valori del matrimonio e della famiglia, no? Infatti sono da buttar via, infatti mi sposo. Ma è carino, ma va bene, è carinissimo, però no, non è assolutamente così, insomma. Vabbè, sono classico, no, sono classica donna lunga. Ma i gruppi invece di fare così. Ma infatti, sminuirti così, comunque. I gruppi in libero stato. Comunque la più bella frase di Salvini, cosa si fa per la politica? Cosa si fa per la politica? Senti qua Giglioli, soprattutto sai che è dato a Palermo, gli hanno preso qualche ortaggio in testa, qualche uova, gli hanno scritto i cartelli Je suis Terun, Je suis Terun, meravigliosi quei cartelli. Senti Giglioli, però Salvini cosa dice della Sicilia? Adesso partiamo col caffè, poi andiamo in trattoria siciliana e pretendo di mangiare quello che mangiano i palermitani la domenica a pranzo. No, io il cannolo lo adoro, anzi a Roma quando, e anche a Milano, anche se non sono quelli siciliani, quando lo trovo sono la persona più felice del mondo. Oh, Giglioli, e due voti conquistati, adoro il cannolo e via. Sì, beh, vabbè, un domani dovessero votare gli extracomunitari adorerebbe anche il couscous. Il couscous, certo. Tutti i politici, sono le tattiche più più basse di conquista del consenso, ma ci sta, dai. Dai, ci sta. Ma ci no, sta. Ma guarda che è autentico Matteo su quelle robe qui, non è una paraculata, c'è proprio uno che comunque è autenticamente convinto che l'omologazione che va... Che il cannolo sia buono, beh, è unanimemente sì, buono il cannolo. Ma sì, madonna mia. Dai, ma poteva fare sì, il patto del cannolo allora, il patto ma uno ma è uno che ama le tradizioni locali, che siano anche in un grasso gastronomico, madonna, ma va bene, ma perché bisogna leggere sempre. Poi quelli lì erano due o tre dei centri sociali che hanno fatto su un po' di Cina, protestassero così contro la mafia, giusto... Ieri hanno arrestato un consigliere comunale a Palermo. Ah sì, che ha detto che era Lega. Ma cos'è stato? Che ha detto ero vicino alla Lega. E Salvini ha detto non è vero. Va bene. Ma ha candidato con Croce Mancato. Attenzione però, perché questa roba qua, posso? Sì, un attimo di serietà. Attenzione perché l'espansione della Lega al centro-sud, a cui Salvini sta puntando per fare il suo partito che non sia più locale ma sia nazionale, porta con sé, diciamo, il rischio, perché... Non abbiamo finora prove. Di chi ti sceglie? Perché c'è mezza UDC e non di quella, diciamo, più all'interno delle leggi dello Stato, che è pronta a andare da quella parte lì. Ci sono diverse inchieste giornalistiche che sono state fatte su questo, il che non vuol dire, non sto dicendo che la Lega... No, però bisogna tenere gli occhi aperti. È un partito che si espande molto velocemente in un'area del paese dove la politica è molto... spesso intrecciate con la mafia, effettivamente sì, qualche rischio c'è, cara Aurora, qualche rischio c'è. Sì, no, ma infatti sai come ci guadagnano andare con Salvini al sud, sai, è proprio un gran guadagno, no, voglio dire, è l'unico che sta facendo da 3 anni dal governo Monti ad oggi durissima opposizione a tutti i governi imposti dalla Troica, è uno che sta guidando un partito... che, come tu sai, sta cercando anche di sopravvivere a livello economico in qualche modo, sì. Perché, insomma, col taglio ai contributi pubblici ci sono le cene. Lo sai meglio tu di noi. Esatto, vorrei capire cosa ci guadagna oggi uno saltare su. Forse oggi no, però non ci possiamo dimenticare, Luciana, che io, la Lega... Ma io credo che anche al Sud, ma no, credo che chi va a sentirsi posso... Salvini... ci sia proprio anche bisogno di capire che cosa vuol dire Salvini. Sì, sarà sicuramente anche quello, resta il fatto che la Lega è stata per tanti anni anche nei gangli del potere a Roma, aeroporti, ASL. Ma dai, un po' sì, adesso Aurora, non far finta, cioè siete stati al governo, avete avuto i ministri, ma non è che sono stati più al governo loro di tutti. Cioè, non lo so, allora se siete stati al governo e non avete preso nessun gangolo di potere, siete anche un po' idioti, questo. C'era un progetto politico, dai, lo sai anche te, c'era un progetto politico che purtroppo non ho pagato. Il federalismo, la percezione che ne ha Lussana da Bergamo forse non è identica a quella che ne ho da Roma. Io ho visto come si riconosceva il leghista appunto, no, vorrei capire anche i leghisti a Roma che sono entrati nei gangli, ma chi è che ha conosciuto? Vabbè dai, allora me lo dici tra poco. Ci pensi dopo il traffico, intanto vorrei lasciarvi al traffico con questa poesia da gioiosa marea. Mi sveglio al mattino col rumore del mare, auguri alla Lussana che dovrà maritare. 24 mattino. Milan, di questa lista Fasciani, di quelli che hanno il conto corrente in Svizzera, sarà interessante sapere di tutti questi quanti sono giudici e magistrati, ossia quelli che avrebbero dovuto combattere il fenomeno dell'esportazione di capitali all'estero e l'evasione fiscale. Comunque voglio dire una cosa, poi ci sono tutti gli altri. Basta! Ci vuole Mussolini! Caro gentilissimo Grillo Peppino, ricordati che c'è stanato Grillo, che è fiorentino. Ciao Grillo, state accorti che Grillo... che lo ti fa Grillo? A noi del popolo, di questi che cambiano casacca, non ce ne frega niente, sono sempre dei pezzi di merda, perché tanto fanno gli affari loro e basta. Pancia mia fatti capanna, le pensioni sono manna che mi vengono a dirotto, perché ho fatto il 68. Ciao Alessandro, com'è bella la tua trasmissione alle 6:30 del mattino quando sono in bagno. Poi non ti dico quando c'è il ciccione e quella gallina padovana di Radio Patata Libera. Io conosco Radio Padania Libera, ma non so se... Che resiste. Aurora, non so, la gallina. Lo zoomorfismo è anche interessante. È vero, sei calderoliana in questo, no? Sai che Calderoli ama gli animali, cos'è che c'ha? Struzzi, sì, orsi, galline, lupi. Sì. Sì, dopo la macumba aveva trovato anche un biacco in giardino, un serpente di 2 metri. Ah, la macumba, la Chieng, che cosa incredibile quella, vabbè, forse andrà a processo, forse no, chi lo sa, voterà il Senato. Ma è il momento Boschi, il momento atteso da tutti. Eccola, assieme, sì. Eccomi. Va bene, è il momento atteso da tutti. Ma scusa, ma senti. No, va bene, rendiamo omaggio a Madonna Boschi. Va bene, andremo in pellegrinaggio. Allora, io l'ho già detto che scelta civica l'ha fatto apposta. Perché senti come suona in toscano. Scelta civica. Non è cambiato l'assetto di governo, perché scelta civica era già parte della maggioranza. Scelta civica non cambia, anche perché molti degli esponenti di scelta civica che entreranno nel Partito Democratico già sono membri del governo. Capito, con Aurora, importanti. Come si parla? Quindi è una scelta politica. Sicuramente la volontà di alcuni senatori e deputati di partecipare ancora in modo più forte, più integrato a questo processo. Cos'è che non ti va bene? Cioè, è una dizione perfetta. Non, voglio dire, meglio di così. È ovvio, no? Quelli che erano scesi in politica come Monti, che adesso... No, ma chi se ne frega? Non era un parere politico che ti volevo... No, beh, ma lei è così, è per il negazionismo, nega anche la transumanza. Nega la transumanza. Vabbè, però io volevo farti solo sentire scelta civica. Non ci riesco, dopo due anni di dizione forse non ci riesce. Allora, ma l'avete visto Capanna da Giletti, Giglioli? L'avete visto? Sì, l'ho visto ieri su YouTube, ma non so se faccio per la figura a dirlo, perché poi sembra che non passo la giornata a lavorare. Quello è guilty pleasure proprio. Ma sai che Giletti, come direbbe Giletti, come ormai aspiriamo tutti per essere 30. Tu devi dire debosciati. Sai che Giletti oggi chiede scusa a Repubblica in un'intervista, perché ha sbattuto giù il libro, no? A un certo punto, il libro di Capanna. Sentite uno dei momenti di rissa con Capanna, Capanna si parlava del vitalizio. Paghiamo un canone per farci rincoglionire da te e gli altri come finito? Te. È chiaro? Ha finito? Perfetto. L'insulti? Ha finito? No? Io dico questo, chiudo qua, visto che accetto anche gli insulti. Vabbè, accetta gli insulti. Poi a un certo punto Giletti butta giù il libro. Lei ha perfettamente ragione. Il mio impeto è stato eccessivo. Ha buttato giù il libro, ora si deve scusare. Aurora, chissà quante volte tu, quando hai fatto un'intervista, che ne so, è che io vorrei un'intervista di Aurora Lussana Renzi. Mamma mia, quanto pagherei! Gliel'avevamo chiesta più volte, ma l'ufficio stampa ci aveva sempre detto che era troppo impegnato. Per la Padania, non si troppo impegnato. No, comunque i libri non si scagliano così, no, dai. Poi vedere Capanna che si batte per il suo vitalizio è sempre un po' triste. Però Giletti, dai. Poi è intervenuta anche la Vigilanza Rai, quindi magari. Sì, la Vigilanza Rai che vuol fare conseguenze. Sì, chi lo sa. Vabbè, Giglioli, che devi fare? Siamo che l'amorosa Rosoli. Una scena? È stata una scena tristissima, dai. Di chi? Di tutti e due, dai, perché uno andava lì a difendere l'indifendibile, l'altro è stato veramente un cafone di che si inviti uno in televisione e poi tratti così, e butti, è stata una scena da terzo mondo. Da terzo mondo! Ma brutta, addirittura! Non offendiamo il terzo mondo, ha ragione Lussano, qua io mi sa che devo chiudere. Aurora, c'è sempre tempo, sì, vabbè, quella roba lì, insomma, per la tua ricetta, se vuoi, se vuoi, veloce, ma una roba proprio in 10 minuti alla Parodi, proprio lo fai. I rognoni trifolati, vabbè, ho capito, il patto del rognone, certo che il patto del rognone non suonava benissimo il patto del rognone. No, perché bisogna vedere se si mette a fare quello che dice Berlusconi. Poi il patto del rognone, tu immaginati i titoli, le ironie, le rime. Oggi è il giorno del ricordo, oggi è insomma una giornata importante, quindi. Vorrei ricordare, ho un po' di amici che insomma mi ricordano le loro tradizioni in questo giorno, e quindi il giorno voglio, mi ricordi un po' di amici Dalmata. Vi devo salutare, vi mando un abbraccio, ciao. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti, cari debosciati d'Italia, noi siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo anche che oggi parleremo di che? Parleremo di prostituzione. Perché? Perché a Roma si discute se fare, diciamo, lo zoning o la cosiddetta zona luci rosse. Ci sarebbe un municipio, c'è un municipio all'Eur pronto a iniziare questo esperimento, tra mille polemiche. Oggi anche si scopre che alcune deputate del Partito Democratico hanno scritto al sindaco di Roma a dire non si fanno queste cose, c'è la tratta delle persone, c'è la tratta delle donne, spesso minorenni. Insomma, parliamo di questo. Avremo Mariona Dinolfi, il direttore della Croce, sarà ospite con noi, sarà nostro ospite. Avremo anche altri ospiti, ovviamente, per parlare di questo tema. Avremo chi ha curato il cosiddetto zoning a Mestre, un esperimento che lì si dice riuscito, e parleremo di questi temi dalle 8:15. Intanto andiamo a leggere i giornali. Questo martedì 10 febbraio cominciamo dai titoli. Il Sole 24 Ore apre su mercati in fuga da Atene, bond a 2 anni oltre il 20%, mentre la strage di migranti è il titolo di apertura per il Corriere della Sera, la morte per gelo in mare, questo è il titolo di prima pagina, e così anche una gelida strage è l'apertura di Avvenire. C'è anche l'apertura dedicata all'attualità internazionale, come per Repubblica. Obama-Putin, accordo subito o armiamo Kiev. E così anche il Messaggero, intesa o armi letali all'Ucraina. Questa è l'apertura di questi due quotidiani, anche la Stampa si concentra sull'attualità internazionale, davvero la situazione di crisi tra Russia e Ucraina. Obama, trattiamo con Putin ma pronti ad armare Kiev. Per quel che riguarda la politica italiana, invece, apre il giornale il metodo Renzi, minacciare è la deriva autoritaria, mentre per il Fatto Quotidiano, un anno di governo Renzi, 3 promesse mantenute su 10. Per Libero, patto degli spinaci, Cavaliere Salvini, il patto degli spinaci è l'accordo tra Berlusconi e Salvini, perché questi patti prendono sempre il nome dal menù, e quindi domenica scorsa filetto con spinaci ad Arcore tra Berlusconi e Salvini, ed eccolo qui il patto con gli spinaci servito per la Stampa. Voglio però iniziare da che cosa? Torna prepotentemente a ribalta il calcio scommesse, che tocca anche il CT della Nazionale, Antonio Conte, e quindi sui giornali si ritorna a parlare, visto che è stata chiusa l'inchiesta Cremona per lui e altri 129 del mondo del calcio. Calcio scommesse, Conte accusato di frode, questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera, pagina 16. Ciò che è stato il calcio italiano almeno dal 2007 al 2013 viene fotografato nelle 108 pagine dell'atto di chiusura delle indagini del procuratore di Cremona Roberto Di Martino. Dopo 4 anni di lavoro investigativo, 230 persone indagate, un migliaio di telefonini, computer, arresti eccellenti, processi sportivi e la scoperta sconcertante che centinaia di partite sono state taroccate oppure oggetto di tentate combine a opera di organizzazioni criminali anche straniere che usavano il calcio italiano per arricchirsi. Ovviamente il nome che spicca di più è quello di Antonio Conte, per il quale cade l'accusa di associazione a delinquere, ma resta quella di frode sportiva per le partite del Siena di cui era allenatore nel 2011. Le partite sono contro il Novara e contro l'Albino Leffe. In una partita soprattutto, raccontano Giovanni Bianconi e Arianna Ravelli sul Corriere della Sera a pagina 16, l'allenatore del Siena Conte comunicava ai giocatori del Siena che era stato raggiunto dalle squadre l'accordo sul pareggio, condizionando così, anche in considerazione del ruolo di superiorità nei confronti dei calciatori della sua squadra, il risultato della partita. Questa almeno è l'accusa di frode sportiva, di una testimonianza ai danni di Conte. Per la verità Conte reagisce in maniera molto tranquilla, come fa sapere il Messaggero a pagina 10. Vi piaccia o no, io resto comunque in nazionale, non accadrà niente, sono qui a organizzare per Saint-Étienne. Così Antonio Conte a metà pomeriggio nella sede della Federcalcio a Milano, racconta Ugo Trani per il Messaggero. Lui che dice: arriverò fino alla fine del contratto, che piaccia o meno a qualcuno. Tra l'altro il capo del CONI Malagò dice: ha già pagato Conte, ha avuto una squalifica per 4 mesi e la vicenda dal punto di vista sportivo almeno pare che possa concludersi così, però certo rimangono le ombre e le accuse, questo per quello che riguarda il calcio scommesse. Mentre ombre, accuse, minacce di nuovi scandali ci sono per la cosiddetta lista Falciani, come lo volete chiamare, Falciani alla francese, Falciani all'italiana, visto che lui è italo e francese, è nato a Monte Carlo, quindi sarebbe Falciani, ma è italiano mezzo e quindi si fa chiamare Falciani. Comunque, insomma, settimana prossima, tra l'altro, il nostro Angelo Mincuzzi, giornalista di Sole 24 Ore, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, ha scritto un libro con Hervé Falciani, La cassaforte degli evasori, uscirà per Chiare Lettere la prossima settimana, e oggi Angelo Mincuzzi infatti intervista sul Sole 24 Ore Falciani. Eccolo qua: coinvolte altre banche, gli scandali non sono ancora finiti. A pagina 25 del Sole: non è finita qui, abbiamo le prove di nuovi scandali, altre banche saranno coinvolte dopo la lista uscita e trafugata dalla HSBC. Raggiunto telefonicamente in Francia, dice: abbiamo dato vita a una piattaforma internazionale per aiutare i lanciatori d'allerta, le persone che come me e come altri decidono di denunciare le situazioni illegali di cui sono testimoni. Il mio obiettivo, dice Falciani, non è mai stato quello di far conoscere i nomi in lista, ma di far capire che esiste un sistema industriale che all'interno delle grandi banche private opera per aggirare le regole. È un sistema che conosce molto bene le leggi e che per questo, e proprio per questo, riesce ad evitarle, e lo fa a tutti i livelli. Così Falciani sul Sole 24 Ore. Ovviamente sono i nomi, quelli che spiccano, no? Si è detto in Italia di Valentino Rossi, Valentino lo stilista, di Flavio Briatore. Briatore che fa un paio di interviste, viene intervistato dalla Stampa, viene intervistato dal Giorno, al Giorno intervistato da Leo Turrini, dice: io evasore, ma veramente dovrebbero darmi una medaglia. Evasore fiscale, dice Briatore, è quel tizio che guadagna soldi in Italia, non ci paga le tasse, deposita il maltolto e il malloppo oltre frontiera. E non è il suo caso, chiede il Giorno. Ma scherza, anzi io ho un po' di quattrini, li ho portati nel nostro paese, sebbene notoriamente l'Italia non sia un paradiso per chi deve investire. Poi Briatore si lancia in qualche considerazione politica, parla di Renzi: a me il giovanotto non dispiace, ha energia ed è pure spregiudicato al punto giusto. Il problema è che paradossalmente chi in apparenza comanda in Italia non ha poteri reali. Ma scusi, questo è il vecchio alibi di Berlusconi. E infatti Silvio è un grande imprenditore che in politica non ce l'ha fatta. E qual è la sua soluzione, Briatore? Sentite la risposta di Briatore. La mia soluzione? Una dittatura temporanea. Una dittatura. Ma sì, dico in senso metaforico, chi vince le elezioni per 4-5 anni deve poter realizzare il suo programma senza impicci e senza impacci, e alla fine i cittadini giudicheranno. Questa è la ricetta di Briatore, che comunque dice: io, evasore, non scherziamo. Tra l'altro, la lista Falciani ricorda in Corriere della Sera che Torino indaga sui nomi. È dalla primavera del 2014 che la Guardia di Finanza di Torino spulcia la cosiddetta lista, o meglio nuova lista Falciani, con l'elenco dei contribuenti italiani, e su questo, racconta Fabrizio Massaro sul Corriere della Sera, già si indaga a Torino. In Belgio, vi segnalo, minacciano addirittura le manette, chiedono il fermo dei manager che sono stati scovati in quella lista, così preventivamente. Evidentemente per il Belgio essere su quella lista è sinonimo di avere già fatto qualcosa che non va. Vabbè, ma siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare di questa giornata, ed è su Libero. Ma com'è possibile, nel 2015 c'è stata questa nevicata abbondante, l'abbiamo detto, ma ci sono paesi ancora in Emilia Romagna al buio da 4 giorni per una nevicata, senza luce, senza riscaldamento. Ieri pensavo anche, che ne so, banalmente, una delle cose stipate in frigorifero, non so, della carne, è tutto da buttare. Ma vabbè, al di là di quello, che è un danno anche, no? Immagino, se uno è un ristoratore, per esempio. Ma Bologna e Reggio, le province più colpite, Antonio Amorosi da Libero, in 20.000 ancora isolati in Italia nel 2015 per una nevicata. Ma com'è possibile? Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Alessandro Milan, funicolare senza corrente. Come direbbe Totò, e tra l'altro come direbbe in Emilia, Romagna senza corrente, magari un po' arrabbiati. Vabbè, allora la politica, cari italiani, fa segnare un nuovo patto, prendete nota, è arrivato il patto degli spinaci. Di che si tratta, direte voi, che magari sentir parlare di spinaci a quest'ora del mattino vi provoca anche qualche sommovimento dello stomaco. Allora, il patto è il patto tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Si sono incontrati in segreto, come aveva in realtà detto Repubblica ieri, domenica ad Arcore. Il menù prevedeva filetto con spinaci, e quindi da qui il patto con gli spinaci, il patto degli spinaci. Questo è il titolo, per esempio, di Libero, il patto degli spinaci, cioè si rialleano Berlusconi e Salvini. I due sono, è una domanda, i due sono convintissimi. Berlusconi dice alleanza a 360 gradi, evviva. Salvini dice momento, bisogna vedere se l'opposizione di Berlusconi a Renzi dura più di una settimana. Insomma, uno frena Salvini e l'altro spinge Berlusconi. Lega e Forza Italia trattano, così il Corriere della Sera, i paletti di Salvini, anche se qui gli articoli più interessanti sono quelli di Amedeo La Mattina, pagina 4 della Stampa. Berlusconi pare che sia infuriato con Renzi dopo il tradimento, come lo chiama lui, del patto violato per l'elezione al Quirinale di Mattarella. Lo chiama così: il giovanotto arrogante, il dittatorello di Palazzo Chigi capirà cosa significa avermi tradito. E questo ha ribadito al pranzo del lunedì coi figli e con Confalonieri, capo di Mediaset, che però gli ha ribadito: fai come credi, caro Silvio, ma tieni le aziende alla larga da questo casino. Accordo Berlusconi-Lega, ma Confalonieri è scettico. Questo è il titolo dell'articolo di Amedeo La Mattina, a pagina 4 della Stampa. E d'altra parte, Renzi come osserva tutto ciò? Beh, con, almeno a leggere dai retroscena dei giornali, sereno distacco. Pagina 6 di Repubblica, l'affondo di Renzi: Berlusconi si è salvinizzato, e più Berlusconi si salvinizza più i moderati non lo voteranno, contento lui. Così Matteo Renzi ieri dice Repubblica negli articoli Francesco Bei e Carmelo Lopapa. Il premier, tra l'altro, che ha fatto? Se Berlusconi si riavvicina a Salvini, Salvini che dice mai però un'alleanza con Alfano, ecco che allora Renzi invita Alfano a Palazzo Chigi per parlare. Tra i due, racconta Repubblica, è tornato il sereno dopo qualche maretta proprio per il caso Mattarella. E pensate un po' alla politica, che poesia, che racconto quasi fumettistico, dal patto degli spinaci di Berlusconi e Salvini a questa. Io ve la do così. Sapete come Alfano ha preso a nominare Renzi in privato? Come lo chiama? Lo chiama così: il nostro rissoso, irascibile, carissimo braccio di ferro. Come quello dei cartoni, da braccio di ferro al patto con gli spinaci. Al patto con gli spinaci, a braccio di ferro. Ale, il racconto della politica italiana. Certo, c'è da dire che questa storia di Berlusconi e le aziende è una storia che viene fuori un po' ovunque. Guardate anche Il Giorno, la pone così: primo stop del Cavaliere alle riforme, ma Confalonieri dice attento alle aziende. Pagina 9 del Giorno. Oppure Libero: il Cavaliere vuole le urne, le aziende no. Come se le aziende parlassero. Comunque, insomma, i suoi manager lo sconsigliano. Temiamo vendette. Temiamo vendette. Silvio medita di far cadere l'esecutivo. Così Libero con Paolo Emilio Russo a pagina 3. Tanto che, racconta Il Giornale, Forza Italia già oggi presenterebbe 700 emendamenti alla riforma costituzionale che il governo Renzi vuole approvare entro sabato. E quindi c'è un Berlusconi che vorrebbe andare contro il dittatorello di Palazzo Chigi, queste sono le sue parole secondo la stampa, ma le aziende e i consiglieri gli dicono di no. Intanto è tutto un gran movimento, in Parlamento voi immaginate sempre uno che va di qua, cambia la casacca, prende le borse, cambia scranno. 170 hanno già cambiato casacca e partito o gruppo parlamentare dall'inizio della legislatura. 170 parlamentari su circa 1000, sono il 10% e di più, quasi il 20%. Ebbene, Fabrizio Roncone intervista il senatore Danna. Il senatore Danna, intervistato dal Corriere della Sera a pagina 10, dice così: attenzione, non è ancora finita. Vi dico chi saranno i nuovi responsabili. Dentro Forza Italia ci sono almeno 5 o 6 pronti a tradire. Ci dica chi sono. Guardi, le giuro, non mi ricordo neanche come si chiamano, dice Danna. Ma se prende gli elenchi e guarda, li individua facilmente. Consideri che sono toscani, tutti incappucciati amici di Verdini. Incappucciati? E che ho detto? Incappucciati amici di Verdini. Solo che incappucciati in genere è sinonimo di massoni. Vabbè, ma insomma, questa è Danna. 5 pronti a tradire, 5 incappucciati amici di Verdini toscani. Questo secondo il senatore Danna. Voi capite che mezza pagina di intervista al senatore Danna, pagina 10 del Corriere della Sera, fa capire che il racconto della politica italiana è una tragicommedia, più tragi che commedia. Comunque, uno dei temi che di tanto in tanto torna, poi rispunta, poi si sparisce, poi rispunta, poi sparisce, è quello delle unioni civili, la legge famosa sulle unioni civili. Tra l'altro rispunta oggi, proprio nel giorno in cui la Cassazione italiana ha detto no alle nozze tra omosessuali. Come raccontano tutti i giornali, per una coppia gay ancora non è possibile la pubblicazione delle nozze, così ha stabilito la prima Corte Civile di Cassazione per una coppia che voleva sposarsi in Campidoglio, coppia omosessuale, e rendere pubblico questo evento come una coppia eterosessuale. Ma ha detto la Cassazione: nel nostro sistema giuridico di diritto positivo, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non è previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale. Questo, come scrive Flavia Amabile sulla Stampa, pagina 6, e proprio sulla Stampa c'è l'intervista di Francesca Schianchi a chi? A colei che ha riunito i 15 progetti di legge nella sua proposta, quella delle unioni civili, sulla quale pare che Renzi voglia spingere, però un giorno si dice che voglia spingere, un altro giorno dice che è delicata dal punto di vista politico. Staremo a vedere. è la redattrice Cirinnà, senatrice Monica Cirinnà del Partito Democratico. Ecco il mio testo. Tra le proposte iniziali c'era anche quella di estendere il matrimonio alle persone dello stesso sesso, ma abbiamo preferito accantonare l'ipotesi per evitare di farlo morire. Con queste unioni civili i gay avranno gli stessi diritti degli sposati eterosessuali, tranne il diritto di adottare. E poi non verrà chiamato matrimonio. Certo, però ci sarà la possibilità, come abbiamo detto varie volte, la stepchild adoption, cioè sarà possibile che il figlio biologico di uno dei due della coppia sia adottato dall'altro. Sì, questo sì, per evitare che, ne so, che una donna che ha un figlio piccolo che si ammala non può chiedere alla propria compagna di andarlo a prendere a scuola o dagli scout, perché di fatto l'altra persona della coppia per la legge è un estraneo. Vabbè, questa cosa mi sembra un po' pretestuosa. Chiunque ha un figlio sa che basta una delega, una firma, o dire alla maestra o al capo scout: viene a prenderlo, questa persona è di mia fiducia, che i bambini vengono affidati. È una roba veramente di banale buonsenso. Se per questo ci vuole una legge è una follia, ma ci vorrà per forse altri motivi. Comunque staremo a vedere. Intanto voglio salutare il nostro Mauro Meazza, Maurino, Maurone, buongiorno. Buongiorno, come stai? Benissimo. Ti sei ripreso? Tu sei sulla lista? Spero di sì, ti ho detto già ieri. Sì. Spero di sì. Ma sai, ogni giorno te lo chiedo, perché se ci sono aggiornamenti magari. Guarda, io ci conterei moltissimo, però purtroppo temo che non. Il nostro amico Alessandro Giglioli ci ha detto che hanno scoperto anche Diego Forlan, colui che ha fatto grandi faville all'Inter, è nella lista, eh? Nella lista. Caspita, nella lista. Veramente, allora qualche speranza anche io, insomma, con il mio cognome potrei essere finito per meriti calcistici riflessi. Pensa a me. Guarda, caro Alessandro, io ti voglio dire, oggi sul Sole 24 Ore, in prima pagina su Norme e Tributi, ti abbiamo messo il facsimile per la regolarizzazione dei tuoi due urini. Ottimo, che sono lì fuori, diciamo, fuori dal perimetro fiscale, ecco, per dir così. No, c'è appunto tutto un lavoro di presentazione con il facsimile della domanda che devi presentare, quindi puoi prenderlo e, se vuoi, poi ti aiuto, ti metto in contatto con un professionista per compilare la domanda, e se la cosa naturalmente ti interessa, per questi due urini o per altri che magari sono compresi in quella lista di cui tu mi dici. Invece vorrei segnalarti che c'è una correzione alla rivalutazione, per dir così, delle pensioni. Ne parliamo in Norme e Tributi. Dunque, le pensioni dovevano crescere dello 0,3%, non è molto, ma purtroppo, essendo legate all'andamento dell'economia, però controordine, sì. 0,2, non 0,3, quindi ci sarà. Ci siamo persi un decimale così. Ci siamo persi un decimale che verrà chiesto nell'anno successivo. Non ho tempo adesso di spiegarti tutto quanto, ma se leggi Matteo Prioschi, naturalmente nelle pagine di Norme e Tributi, bravissimo, allora potrai comprendere tutto il bisticcio di questo 0,3 che diventa 0,2. E poi ti segnalo che avanza la riforma della professione di avvocato, per cui bisognerà avere almeno 5 cause l'anno per essere chiamati tali, se no non potrai restare iscritto. Inventiamocele, no? Tutti i particolari. Qualche avvocato che è arrivato a 4, se volete, querelo Mauro Meazza e via. Potremmo querelarci a vicenda e esatto. Mettere a disposizione a due avvocati. Parliamo di cose serie, che ci sono gli hedge fund degli Stati Uniti che mostrano interesse per Monte Paschi di Siena, ne parliamo diffusamente oggi nelle pagine di Finanza, questa volta non nelle pagine di Norme e Tributi, invito a leggere. Poi c'è una decisione sul patrimonio bancario che potrebbe darci fastidio, ma non riesco a spiegarmi così velocemente. Diciamo che alcuni bond non potranno essere calcolati, ha spiegato la BCE, nel patrimonio. In sostanza ci ballano 8,5 miliardi, non è che hai qualcosa di tu da dare, i due urini ad esempio? Vabbè, pensaci un attimo. Pensaci un attimo, altro non ti devo dire, naturalmente molto anche con, c'è un'intervista a Falciani fatta da Angelo Mincuzzi sulla vicenda delle liste di cui abbiamo parlato all'inizio. Chiederò al collega se Falciani ha fatto il mio o il tuo nome. Va bene, Domattina ti faccio sapere. Alessandro Milan, il conduttore così morbido che si taglia con un grissino. Vabbè, anche questa non è male. Mi piacciono quelle che richiamano qualche pubblicità. C'è l'arrotino, domani voglio l'arrotino. Va bene. Allora, Varoufakis, il ministro delle finanze greco, fa un'intervista al Corriere della Sera per dire: smentisco di avere detto nel mio viaggio nelle capitali europee che l'Italia è a rischio default. Così lo trovate intervistato da Maria Serena Natale a pagina 5. Non ho mai detto che l'Italia sia a rischio default. Che cosa ho detto? Propongo strade alternative. Di questo parlai nel tour di 4 anni fa con un ministro italiano del quale non dirò il nome. Mi suggerì questo ministro di portare in Europa le mie idee sul New Deal, il nuovo corso. In realtà lui avrebbe avuto molte più chance di farsi ascoltare rispetto a un semplice professore, ma mi disse: non posso parlare di queste cose perché se lo facessi, visto che sono un esponente di governo, tutti direbbero che l'Italia è sull'orlo della bancarotta e quello sarebbe davvero l'inizio della fine. Ecco, Varoufakis dice: questo ho detto, ho semplicemente ricordato una vecchia storia che è stata distorta a causa del clima di questi giorni, cioè chi vuole alimentare il conflitto a tutti i costi. Certo, ora, chi è quel ministro con cui parlò Varoufakis 4 anni fa? La caccia aperta, visto che Varoufakis dice: non dico il nome. Tra l'altro, il ministro greco delle finanze, udite, lui che assomiglia un po' al Bruce Willis di Die Hard e al Checco Zalone, un misto, avete presente, è stato considerato, racconta Libero, secondo un sondaggio del quotidiano Die Welt, dai tedeschi, un'icona del sesso. Varoufakis, questo misto tra Bruce Willis e Checco Zalone, ce l'avete presente, no? Un'icona del sesso per i tedeschi. Ah, Varoufakis. E dire che insomma tra Germania e Grecia non è che corra buon sangue, ma forse Varoufakis ha delle armi nascoste che potrà mostrare per rasserenare almeno le tedesche. Varoufakis. Vabbè, allora, la cronaca purtroppo ci porta a raccontare invece quella che è l'apertura di molti quotidiani, vale a dire l'ennesima strage di migranti a Lampedusa. Questa volta sono morti di freddo, di stenti, sono stati recuperati dalle navi italiane e molti di questi migranti, 29, sono morti proprio letteralmente una volta che erano stati recuperati, perché erano stati troppo a lungo in mare e quindi sono morti di freddo. Eppure racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere della Sera che la linea dura del Viminale continua, cioè molti dicono, come lo dice per esempio il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, se ci fosse stata Mare Nostrum ancora, queste persone non sarebbero morte perché saremmo andati a prenderli più in là. Tutti uomini giovani, dice Pietro Bartolo, tutti morti, erano tutti giovani e forti. Non riesco a cominciare il lavoro. Era prevedibile, succederà di nuovo con Mare Nostrum, non avremmo questi morti. Ma, come dicevo, Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 3 del Corriere, la linea dura del Viminale non cambia, e cioè i mezzi di soccorso nell'ambito della nuova missione Triton si muoveranno solo in caso di grave pericolo, perché la loro presenza in acque internazionali o addirittura di fronte alle coste libiche rischia di incoraggiare le partenze, come hanno ribadito nel corso della riunione anche i vertici di Frontex. E quindi non cambia la linea italiana. Altrimenti il timore è di un boom di nuovi sbarchi. Questo almeno racconta il Corriere della Sera. Beh, anche per Repubblica, migranti, un'altra strage, in 29 muoiono assiderati, i soccorsi erano inadeguati, racconti di questi migranti tra le onde alte 3 metri per ore in attesa che arrivassero i soccorsi che però non sono arrivati, o sono arrivati ovviamente molto molto tardi. L'altra notizia di cronaca che ancora trova spazio sui giornali è questa, ne parleremo dalle 8.15, e cioè il quartiere a luci rosse a Roma. Diteci che cosa ne pensate. Dalle 8 i telefoni sono aperti, 800 24 00 24 se volete chiamare. Sapete che a Roma il presidente del nono municipio dell'Eur insiste, dice: presto porterò la documentazione in Campidoglio, bisogna andare avanti, cambiare le cose, cioè fare delle zone, si chiama infatti così, per esempio a Mestre l'hanno chiamato così, zoning, e avremo ospite colui che era il prosindaco di Venezia, Gianfranco Bettin. Pare che lì abbia funzionato, cioè questo zoning, dedicare tra l'altro una zona di una città ben individuata alla prostituzione controllata, cioè nel senso con un rapporto, la prefettura che dice di sì, il rapporto anche con le prostitute che vengono controllate, si dialoga con loro, si fanno anche interventi di tipo sociale. Qui a Roma pare invece partita malissimo, nel senso che non è ancora partita, ma il prefetto per esempio dice che è assolutamente una norma che favorirebbe, o meglio sarebbe passibile di favoreggiamento della prostituzione. L'Osservatore Romano, quotidiano del Vaticano, dice: siamo indignati e sconvolti. Insomma, a Roma c'è il Vaticano, non è che si può far finta che non ci sia. Le deputate del PD, come Lorenza Bonaccorsi, che scrive al sindaco del PD, Ignazio Marino, dicendo: no, non si deve fare, l'aspetto che non si può in alcun modo ignorare il legame stretto tra prostituzione e traffico di esseri umani. Insomma, parte malissimo, se mai partirà questa idea dello zoning o di fare un quartiere a luci rosse, una zona a luci rosse a Roma. Tanto poi che quando il sindaco ha anche paventato l'idea di multe a casa per coloro che dovessero contrattare con una prostituta fuori da queste zone, con scritto sulla multa 500 euro per avere contrattato prestazioni sessuali fuori dalle zone, voi immaginate le mogli, i parenti, le amanti, le fidanzate, i fidanzati che ricevono a casa queste cose. Ma che... mi sembra che sia partita con un piede talmente sbagliato che difficilmente si farà, ma staremo a vedere. Intanto parte anche col piede sbagliato evidentemente il bonus bebè. Racconta il Messaggero che il bonus bebè per 50.000 bimbi già nati in Italia nel 2015, approvato nella legge di stabilità, non è ancora partito perché manca il decreto. Ma com'è possibile? Manca il decreto bonus bebè al palo. 50.000 bambini già nati in Italia nel 2015, ma per nessuno di loro i neogenitori ha potuto finora incassare il cosiddetto bonus bebè, il nuovo assegno. E passeranno ancora altre settimane. Il Messaggero, pagina 9. Mentre invece eccolo qui, no, l'intervista a Carlo Cracco, no, su come si fa la matriciana con l'aglio senza aglio, no, lo sapevo, sul Messaggero a pagina 14, e poi dicono che la carta costa. Carlo Cracco che ci spiega come si fa la matriciana. Ma chi se ne frega. 24 mattino. Eccoci, sono le 8.19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, oggi parliamo di prostituzione e lo facciamo anche col vostro contributo, se volete all'800240024, chiamateci. Parliamo soprattutto del caso di Roma, ma non solo, se ne parla anche a Milano. Devo dire che a me sembra che se il buongiorno si vede dal mattino, mi sa che di questa storia non se ne farà nulla. Il progetto a Roma, come lo vogliamo chiamare, di creare un quartiere a luci rosse, un'area adibita alla prostituzione, forse ci sarebbe un termine tecnico anche più giusto, che peraltro ha funzionato in altre zone, penso per esempio al comune di Mestre, si chiama zoning. Allora, lì succede a Roma che il presidente del nono municipio, Andrea Santoro, vuole fare, soprattutto si parla dell'Eur, che cosa? Una zona lontana dai centri abitati, dalle scuole, da aree sensibili, dove di fatto si può contrattare una prestazione sessuale. Se invece, se venisse istituita questa zona, uno contrae una prestazione sessuale o contratta una prestazione sessuale al di fuori di questa zona, c'è la multa. Una multa che tra l'altro il sindaco Marino ha fatto pensare potrebbe addirittura arrivare a casa. E pensate un po', una moglie che legge è arrivata a casa una multa perché il marito è andato a puttane, insomma, è qualcosa. E ovviamente apriti cielo da parte di tutti, c'è chi dice che è giusto, c'è chi dice che è sbagliato, c'è l'Osservatore Romano, insomma c'è anche il Vaticano, sappiamo a Roma che gli scrive: siamo indignati, siamo sconvolti, ci sono i vescovi che protestano, ci sono delle deputate del PD che scrivono a Marino dicendo caro sindaco, così aiuti e favorisci la tratta delle donne. C'è il prefetto di Roma che dice: no Marino, così si rischia di incorrere nel reato di favoreggiamento della prostituzione. Insomma, se ne sta discutendo ed è già un putiferio di polemiche. Oggi leggo che anche a Milano, così racconta per esempio il Corriere Milano, anche a Milano c'è un asse SEL Forza Italia per creare un progetto simile. Quindi il tema c'è. Voglio salutare intanto Mariola Dinolfi, buongiorno. Buongiorno. Allora, Mariola Dinolfi, lo sapete, è laico di formazione, però insomma è direttore della Croce Quotidiano da un po' di tempo, da gennaio. Che ne pensi di questa cosa di Marino? Ma più che ne penso, io oggi non ho scritto, ne abbiamo scritto a pagina 3 della Croce, abbiamo raccontato che semplicemente non funziona. Abbiamo preso la casistica olandese, visto che tutti citano l'Olanda senza però sapere quello che è l'Olanda, quello che è accaduto. In Olanda la legge sulle case chiuse, diciamo una legge al latino, diciamo, tipo legge Merlin, che vietava quindi le case chiuse, vietava le zone, lo zoning come viene definito adesso con questa nuova espressione, è durata fino al 2000, è stato poi liberalizzato, diciamo così, il settore nel 2000, dopo sì. Ci sono stati degli studi e gli studi hanno raccontato quello che noi semplicemente riportiamo sulla Croce, perché qualche volta sarebbe bene andare a guardare l'esperienza che è stata compiuta. E non funziona, perché non funziona? Ovviamente non funziona, questo studio si chiama lo studio Dalder, uno studio appunto olandese, quindi sicuramente non vaticano, diciamo così, che afferma che non c'è nessun miglioramento significativo nelle condizioni delle persone che si prostituiscono. Il benessere delle donne che esercitano la prostituzione è peggiorato rispetto al 2001 in tutti gli aspetti considerati. È aumentato semplicemente non l'uso dei preservativi, ma dei sedativi. Quello è il fattore più evidente, sì. E la richiesta di uscita da questo settore, cioè perché le donne qualche volta vogliono uscire dalla prostituzione, e questo quello bisognerebbe cercare di agevolare, non è agevolato da nessun comune, solo il 6% dei comuni in Olanda ha politiche. Quindi dici dal punto di vista pratico, secondo questo studio, non ha portato a dei benefici. Raccontare che miracolosamente fai una cosa del genere, riduci lo schiavismo delle donne o il traffico della prostituzione o la ricchezza dei papponi, perché quello è semplicemente non è sbagliato, vero, però no ma questo lo raccontiamo a pagina 3, perché ha la pazienza di andarsi a leggere va pagina bene. 3 della Croce della Quotidiana, Croce Quotidiana. Okay, non le chiacchiere degli va bene, gli studi. Allora, però, visto che hai detto lo zoning non ha funzionato, comunque ad Amsterdam questo studio dice non ha funzionato, ti presento colui che invece è stato uno dei padri, diciamo così, dello zoning a Mestre, vale a dire Gianfranco. Non ha funzionato, nel senso non ha fatto star bene o non ha fatto star bene, questo certo. Poi dopo che ci vada la mignotta esiste qualcosa, ovviamente lo sappiamo. Insomma, ecco, però questo è l'aspetto laico, questo è l'animo laico di Adinolfi. Non è la cosa migliore. Vabbè. Insomma, saluto Gianfranco Bettin, che è stato prosindaco a Mestre. Buongiorno Bettina, è stato anche mio assessore all'ambiente del Comune di Venezia. Insomma, Bettina, lei è uno dei padri, così si definisce, dello zoning che risale al 1994, che mi sembra invece a Mestre abbia portato dei risultati. Quali? No, intanto io condivido l'analisi che faceva Dinolfi su un certo modo di concepire questo tipo di interventi. La parola zoning non indica una cosa che è stata fatta, un recinto in cui si mettono delle persone, ma una pratica che consiste non nell'individuare una zona specifica in cui confinare il fenomeno e che poi chi vi è coinvolto si arrangi, ma un pezzo di un intervento più complessivo che ha la funzione di ridurre l'impatto di questo fenomeno sui residenti. ma questa è solo una parte del lavoro, il cui contenuto è la lotta al racket e la possibilità, come diceva adesso anche Adinolfi, di uscire da quella condizione per le persone che vi sono coinvolte. Io leggevo che a Mestre questi risultati in parte si sono ottenuti, cioè è chiaro che uno, se uno dice, lei ci sta dicendo, se uno dice facciamo una zona, un quartiere a luci rosse, andate lì e fate quello che volete e lasciamo l'esperienza che vada così, non si ottengono dei risultati. Si ottengono i risultati che ricordava sulla base dei dati olandesi si fa un ghetto del sesso, chiamatelo come volete, si dice andatevi e sfogatevi. Invece voi cosa avete fatto? Questo aspetto di ridurre l'impatto sui residenti è una componente dell'intervento, significa che se per ragioni X, diciamo, il fenomeno si concentra a ridosso delle case, uno degli interventi dei nostri operatori, che sono una ventina, anche, come dire, ha l'obiettivo di spostare di zona, diciamo, di ridurre questo impatto e questo conflitto con i residenti, ma il contenuto sistematico del nostro lavoro è il contrasto al racket e la costruzione di vie d'uscita da quella condizione, che a volte riguarda persone che l'hanno scelta, ma in moltissimi casi riguarda persone che vivono in stato di costrizione, se non di schiavizzazione. Certo. Quindi significa ridurre per costruire percorsi protetti di fuoriuscita. Sì, vuol dire dialogare con le prostitute, vuol dire fare assistenza sociale, stare in strada con loro, cercare di dialogare con loro. Cioè, da questo punto di vista, Adinolfi, non ti sembra però che le reazioni siano state anche da alcune parti un po' subito all'italiana, un po' isteriche, a dire no, non si può, come se la prostituzione non esistesse. Allora, A me basta che la reazione non sia mai ideologica. Per esempio, delle cose che dice Bettini, io gli trovo ragionevolezza, d'accordo? Allora, io però vorrei davvero che noi considerassimo la prostituzione non con questo atteggiamento, Alessandro, che hai appena citato, alla prostituzione esiste, dunque troviamo il modo per farla svolgere il meglio possibile, perché anche la mafia esiste, ma non è che facciamo, diciamo, i quartieri per mafiosi. Non mi paragonerai la prostituzione alla mafia. Beh, sai che la mafia si nutre abbastanza di questi capito, traffici, ma la tratta, diciamo, parliamo della prostituzione libera, cioè nel senso la tratta, tutti siamo contro la tratta delle schiave, degli schiavi del sesso. Ma io sono anche contro la prostituzione, se è consentito esserlo. No, ma certo che è consentito, però è una scelta personale, libera. Ma non è una scelta personale, se fosse una scelta personale. Ma bisogna andarci a parlare, fatevi raccontare dalla vita di Don Oreste Benzi, che per strada ci è andato davvero, le istituzioni ci andassero davvero a parlare con queste donne e ci facessero il racconto di quanto gli piace essere toccate, palpate, penetrate dal primo che passa per strada. E se vuoi una roba del genere, è una scelta di una donna? È davvero, pensi che questa cosa appartenga al territorio di scelta? Questo è semplicemente un business, è un mercato, e come dici te, siccome c'è un bisogno, allora l'offerta si organizza. Però attenzione, da questo punto di vista noi dobbiamo decidere cosa è un'istituzione. L'istituzione che cos'è? È una cosa che agevola questo tipo di rapporto domanda-offerta? A me sembra che questo lavoro che viene invece che cosa fa? Quindi tu cosa vorresti? Quindi tu la aboliresti comunque? Cioè, sappiamo che la prostituzione non è illegale, è illegale appunto il favoreggiamento alla prostituzione. Tu la aboliresti? Cioè, dichiareresti la prostituzione illegale in Italia tu cur? Io molto, molto tranquillamente direi alle istituzioni: andate a parlare con le donne che stanno in strada, ma parlateci per davvero. Sì. Andate a vedere le storie di quelle donne che stanno in strada, e poi cercare di capire se è accettabile l'idea che queste donne vengano messe in una vetrina, in una via, in una... Però questo, Mario, questo è un aspetto sociale e siamo d'accordo, ma dal punto di vista poi che fare? Cioè, che fare? Regolamentarla, non regolamentarla, renderla illegale? Il racket della prostituzione. E questo siamo d'accordo. No, ma noi siamo d'accordo. Non viene fatto. Non hai capito che la soluzione viene proposta è non combatterlo. In Olanda, dove c'è il mito della prostituzione libera e di Stato, in realtà l'83% della prostituzione è gestito comunque illegalmente. Cioè non è quella soluzione dal punto di vista proprio operativo. Non so, vediamo un po'. Di soluzione devi andare a combattere. Perché va bene, ma Bettin di prostitute, di persone, visto che voi siete stati in strada, le avete conosciute, e questo è uno dei temi, Adinolfi dice, non è mai una scelta libera, veramente libera, quella di prostituirsi. Forse la realtà è un po' più spuria, diciamo. diciamo che nella grande maggioranza dei casi si tratta di situazioni di costrizione, ripeto, a volte di schiavizzazione o comunque di forte costrizione, e le storie che abbiamo raccolto in quasi 20 anni ormai di lavoro sono storie molto spesso tremende, per cui è vero che un'istituzione in questo caso, specialmente un'istituzione locale che non ha quindi competenze sulla normativa, no, che deve semplicemente applicare eventualmente la normativa che c'è, ha tuttavia il compito di stare dalla parte delle vittime e di contrastare chi le schiavizza, chi le sfrutta. Molto spesso in questo campo c'è anche il cliente, sì, che è una questione che andrebbe trattata in modo specifico, perché ovviamente se non ci fosse un mercato non ci sarebbe neanche l'offerta e viceversa, ovviamente, no? E dentro l'offerta la presenza dei racket, delle mafie, della criminalità organizzata è fortissima, anche questo va tenuto in conto, perché quello è un canale anche di arricchimento illecito da parte appunto dei racket e delle organizzazioni criminali. Ma la scelta di un'amministrazione, di un'istituzione locale, è dalla parte delle vittime. In questa parte ci metto anche a volte i residenti che sono colpiti dall'impatto sono di questo fenomeno, e dunque per noi è sempre centrale la offerta. Noi abbiamo ridotto a un terzo, diciamo così, la presenza del fenomeno in questi anni. Ecco, quindi un risultato c'è stato da questo punto di vista concreto? Sicuramente, anche se bisogna sempre ripartire da capo, perché c'è un altissimo turnover, sempre ricominciare a ricostruire la. Però dice, voi avete ridotto di un terzo la presenza di prostitute. A un terzo. Erano circa 160. Quindi di due terzi. Esattamente, erano circa 160-180 stabilmente, diciamo, nella seconda metà degli anni 90, oggi sono circa una sessantina, a seconda anche delle stagioni. Ma la cosa, al di là del numero stabile, la cosa più importante è un elenco di alcune centinaia di donne che sono uscite stabilmente da quella condizione. Per noi l'uscita la registriamo quando è da almeno un anno che la persona coinvolta non si prostituisce, non sta più sulla strada e ha ricostruito la propria vita. Visto che ci sono tante telefonate, tanti commenti, dopo la pubblicità riprenderemo, ci raggiungerà anche Anastasia Petrella, che forse non la conoscete di nome, ma è una di quelle due consigliere di Castel Volturno, che è diventata famosa perché ha fatto anche questa iniziativa certamente mediatica, quella di mettersi in strada e travestirsi, o meglio vestirsi o svestirsi da prostituta insieme al sindaco lì a Castel Volturno. Vorrei sentire prima però Gabriella da Roma, ci chiama. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire che invece di fare tutte queste chiacchiere è meglio rifare la legge Merlin, mettere le case chiuse, controllare queste persone e prendere le tasse e soprattutto controllare le malattie e la delinquenza. Penso che sia migliore. È un tema, Gabriella, è un tema che lei pone sul piatto. Anche e che perché c'è. Recuperiamo un po' di soldi. Certo, è una delle proposte. La Lega, per esempio, vuole questo, ma non solo. Insomma, riaprire le case chiuse da quando sono state chiuse, appunto, è un tema molto sentito. Antonella da Roma? Pronto, Antonella? Eccoci di nuovo qua a parlare del solito problema che non finirà mai. Io non capisco perché una volta tanto non fanno parlare noi cittadini con un referendum. Eccoci qua. Perché loro litigano, fanno, e la Chiesa, quello qua. Ma questo mettere la testa sotto la sabbia lo possono fare solo loro, perché noi non lo possiamo fare. Mi dica lei da cittadina cosa vorrebbe. Vorrebbe una zona di Roma, magari anche sotto casa sua, o vicino a casa sua. Che innanzitutto le zone dovrebbero essere un po' dappertutto, cioè senza fare, quindi se ci certo. Un po' per uno, magari anche qualche casa, magari. E quindi fare delle cose regolamentate. Già perché c'è nelle case, guardi, apra gli occhi che ne troverà. Già c'è, ma per me è meglio a casa loro che sotto la a casa loro. A casa loro uno fa quello che vuole, a casa sua, insomma, non è che può. Però lei vorrebbe delle zone. 24 mattino. Siamo qui alle 8:40 minuti, allora parliamo di prostituzione, c'è la polemica a Roma, ma vale per tutte le città, è appena nata anche a Milano, perché a Milano qualcuno ha proposto di fare la stessa cosa di Roma, e cioè creare una sorta di quartiere a luci rosse. Siamo con Gianfranco Bettin, che è stato il prosindaco a Mestre, dove hanno fatto lo zoning, c'è Mariona Dinolfi, direttore della Croce Quotidiano, Tra poco presento anche un'altra ospite, però Mario, veramente ti rifaccio la domanda, perché contrastare il racket siamo tutti d'accordo e tu dici non si fa abbastanza, e siamo tutti d'accordo a dire si faccia di più, si faccia fino in fondo il contrasto dello sfruttamento della prostituzione, ma di fronte a una scelta, ti ripeto, libera, che tu dici ma bisognerebbe indagare cosa ha portato, ma ci sarà anche una persona, due, dieci che vogliono farlo liberamente, c'è una domanda e un'offerta, che lo fanno già in casa, Alessandro, lo fanno già in casa, ma magari non ti trovo niente. Quindi, come ha detto bene Bettin, le persone le ha definite così e così sono vittime. Allora, se uno parte da quella logica e mi dice che da 160 prostitute me le porta a 60, anche se poi il ricambio è successo, insomma, andrebbero letti quei dati, io dico benissimo, però deve essere questo l'approccio. Per me le prostitute sono vittime. La signora che telefona e dice fate il quartiere, però non fate il mio, per favore. Quello è il problema sempre, no? No, vabbè, dice, non è che lo fate il mio, fatelo un po' diffuso, fatelo diffuso un po'. Un po'. Vabbè, ma va bene così, allora, va bene così, come dicono all'Eur, tu lo conosci meglio di me, l'Eur, preservativi per strada, Kleenex, robe, schifo, tutte le mattine. Ma quella roba, secondo me, non si può contrastare, cioè è... O è, se diventa una priorità, quella roba si contrasta. Ma come? Quindi multe, che fai? Le multe? Tu per esempio la manderesti una bella multa a casa a un padre di famiglia? Che io gli... se mi dai la bacchetta magica, io rendo la prostituzione reato. Prostituirsi rendo reato, d'accordo? Quindi se comando io, però non comando io. Quindi vittime due volte, vittime del racket e poi finiscono in carcere. No, no, vittime del racket, non lo fanno, perché l'azione di prevenzione deriva anche dalla capacità di saper dire che se quella cosa è reato tu non la fai. Reato. Cioè io considero, ripeto, se quella è una vittima, se quella persona è una vittima, io devo fare tutto, devo mettere in atto tutto quello che posso come istituzione per evitare che vittima sia. Ma è un po', sembra un po' come il proibizionismo dell'alcol, poi la gente lo farebbe di nascosto, lo sai anche te, dai, sei un laico. Come lo fa adesso? Fa liberamente, cioè mi dà una soluzione che non c'è. Mi dite semplicemente prenditela così e tienitela. No, tienitela pensare. O regolamentala o affrontala. Riducila, e va bene, su questo sì. Progressivamente riducila. Fammi puoi fare una sola cosa, non dire che è una cosa bella e libera che la gente fa per scelta, perché non è vero. Presentare la consigliere comunale di Castel Volturno, Anastasia Petrella, buongiorno e benvenuta. Ci sente? Sì. Eccoci qua. Allora, lei insieme a una collega, Stefania San Germano, si è prestata a questo blitz che ha avuto anche un'eco mediatica, cioè vi siete finte prostitute e siete scese in strada e che è successo? Si fermavano gli uomini, ovviamente, si fermavano. Sì, perché l'avete fatto intanto? Per sbattere in faccia alle persone questa realtà? Sì, assolutamente, è stata una provocazione per lanciare un grido di aiuto sulla problematica. E ci siamo calati nei panni di queste persone e abbiamo constatato che, pur essendo giorno, pur essendo noi diciamo del posto, le persone si fermavano, quindi il fenomeno è ancora più dilatante di quello che si pensa. Lei che ne pensa? Al di là dell'esperienza, ha già detto, è stato proprio anche umanamente molto molto devastante, cioè avere a che fare con questo approccio, proprio la macchina che si ferma, immagino le domande brusche, dirette, molto molto brutali. Molto, no? Brutali, sì. Però da donna le chiedo che ne pensa anche di quello di cui si sta discutendo a Roma, di quello di cui si discute nelle grandi città, e cioè cercare di regolamentare un fenomeno che c'è. Ha sentito Adinolfi dire no, bisogna fare in tutti i modi per dire bisogna diminuirlo. Noi già nel programma elettorale avevamo previsto lo zoning come la proposta di Roma. Sì. E io penso che regolamentare, guardiamo sempre al nord Europa come modelli di civiltà, dovremmo farlo anche in questo caso, perché far finta che il problema non esista è come nascondere la polvere sotto il tappeto. Quindi secondo lei è un'ipotesi che si dovrebbe perseguire, quella dello zoning? Sì, dovrebbe perseguire. Io sicuramente il nostro modo non è stato istituzionale, però era l'unico modo per richiamare le istituzioni su un problema e sul far partire un input per trovare una legge che regolamenti il fenomeno, anche perché queste persone vengono sfruttate, sono vittime del racket e quindi una regolamentazione secondo me non non farebbe altro che togliere dal racket quelli togliere che sono... dal racket, esatto. Che hai sentito, Mario? Che, o che dice? Ci sono i dati, gli ho detto, guardate, pagina 3 della Croce Quotidiana. Ho capito, vabbè, ma non Olanda, è che Amsterdam, in Olanda, ad Amsterdam. Beh, Amsterdam non è una nuova esperienza qualsiasi. Vabbè, ma non è che quello studio di Amsterdam sia uno studio che prendiamo come, voglio dire, è faro per tutto il tema della prostituzione nel mondo. Scegliete altri studi, datemi altri studi che dimostrano che con quella modalità si riduce la prostituzione, io dico bene, ma secondo me non avviene, cioè questo è quello che è. Semplicemente decidiamo di toglierci dagli occhi il problema. Questa è la soluzione. Voi mi dite, la polvere sotto il tappeto, ma lo zoning che cos'è? È toglierci dagli occhi il problema invece di combattere il problema è toglierlo dagli occhi. Ma guarda che invece Bettin ci sta dicendo che è il contrario, cioè è far fronte, no, l'ho capita bene Bettin, è far fronte a una situazione che c'è e cercare di affrontarla. Roma non è mesta, certo. È far fronte al problema, a un aspetto del problema, però lo zoning non riduce il fenomeno della prostituzione. Zoning evita l'impatto sui residenti. Ma no, ma infatti, ma lo nessuno toglie dagli occhi. Ma Marione, ma nessuno si può anche dire, come dice Adinolfi, che lo toglie dagli occhi. Io preferisco pensare che anche lo toglie da sotto le case, che è già diverso, ma di per sé non riduce. Ho capito, ma io dico, ma Mario, è un approccio, voglio dire, di un amministratore laico quello che dice: io non devo giudicare la morale, devo contrastare il racket e ci sono le forze dell'ordine. Ma è un problema di morale. Ma no, ma è anche un problema di morale. E sono laicissimo e dico che una donna violentata, sfruttata, trattata come è stata trattata la consigliera, che si è accorta di cosa significa stare in quella condizione. Non è che ho risolto il problema. Ma non mi sembra che abbia cambiato idea. Anastasia Petrella, mi faccia capire. Chiediamolo. Una via, l'hai tutelata di più, secondo te? No, d'accordo, però glielo chiediamo. Glielo chiediamo. Petrella, lei di fronte a questa esperienza ha cambiato idea, cioè dire no, ma che zoning? Proprio qui bisogna fare, come direbbe Adinolfi, la prostituzione è reato, bisogna diminuirla in tutti i modi e contrastarla in tutti i modi, oppure rimane dell'idea? Bisogna diminuirla, ma sicuramente non renderla reato, perché altrimenti queste donne sarebbero vittime due volte. Io, per quello che ho provato sulla mia pelle, penso che nessuna donna possa scegliere liberamente di prostituirsi. È finito il discorso, Però Petrella, questa è la frase per cui Adinolfi dice a questo punto: perché regolamentarla se realtà, nessuna donna lo fa liberamente? In realtà questo è quello che ho avvertito io. Poi ho parlato con persone che hanno fatto studi sulla prostituzione e mi dicevano: Anastasia, guarda, c'è una percentuale di donne che scelgono di farlo, sarà pur minima, però scelgono di farlo. Regolamentarla perché? Per non aumentare la criminalità sulla tematica e soprattutto anche per farla avvenire in condizioni igienico-sanitarie. Cioè fare in modo è una delle soluzioni che viene spesso portata avanti, regolamentare un fenomeno per toglierlo dalle mani della criminalità. Però Marione su questo non è d'accordo. Ti raccontano ovunque che non è così. L'ha detto te stessa, non è che questo ti riduce l'impatto, però se tu lo sposti in una via l'impatto del racket diminuisce, perché la sua condizione normativa è identica. Semplicemente non lo vedo. Allora questa soluzione è scema. Se mi dite che la soluzione è mettere la polvere sotto il tappeto, io vorrei mettere la polvere sotto il tappeto. Tutto il contrario, la volete mettere voi la polvere sotto il tappeto. Ci sono tanti ascoltatori. Michele da Trani, siate brevi, vi prego. Michele da Trani, buongiorno. Buongiorno. Secondo me lo zoning è una stazione positiva per controllare questo costume, perché parliamo di costume costume. Assolutamente sì, perché sono tantissimi anni, fa parte della storia della prostituzione, quindi sicuramente non si può risolvere, come dice il suo ospite, dicendo che è reato, perché poi parliamo in Italia del reato, ormai si frequenta, di viene punito e si fa la prostituta. È un costume, se è stato chiaro, così è conciso, è un costume, capito Adinolfi, e quindi va regolamentato. Sentiamo Giacomo da Lucca. Giacomo, buongiorno. Sì, Sì, buongiorno a tutti. Sì, credo che sia anche per me la zona, lo zoning sia una cosa positiva. Per esempio, la mia esperienza, io vado a lavorare tutte le mattine molto lontano e faccio una strada di percorrenza molto frequentata, ed era completamente invasa da diversi tipi di prostituzione. Quindi, certo. Ecco, cosa è successo? Lei le vuole invece, le vuole una zona perché le dà fastidio passare in macchina e vedere? È un po' questo il dire, mettere veramente lontano dagli occhi, lei non... Non è così, è come è stata levata la prostituzione e probabilmente ubicata in altri posti, facendo una cunetta sulle strade, guardi, sono diversi chilometri, decine di chilometri. Sì, è l'idea di dire, cioè via da qui, almeno non la vede, lei è più sereno però quando va a lavorare. Però è anche più... Certo, è anche più come dire, non frequentabile, si può anche, ora non viene la parola, sono tutte lì, sono anche più guardate, insomma, dalle forze dell'ordine, controllate. Vabbè, ecco, è l'idea di base dello zoning, cioè creare una zona dove poi c'è più controllo sociale, come ci sta spiegando Bettin. Max da Milano, buongiorno Max. Buongiorno a tutti, sì. Io vorrei solamente che ci fosse un atteggiamento molto pragmatico e al signor Adinolfi, sì, chiederei solamente, lui che conosce bene la realtà, di chiedere a 100 prostitute quante sarebbero più contente se invece di farlo per strada con rischi, botte e anche prendere una minima parte di quanto guadagnano, sì, se sarebbero più contente di farle in luoghi sicuri. Guardi, lui farebbe un'altra domanda, e cioè siete contente di farlo oppure no? Questo è il punto. Ma però bisogna, per risolvere i problemi, bisogna partire diciamo da quelli più gravi e piano piano magari... No, forse però la domanda Max, no, non so Mario, tu che domanda faresti? Siete contente di farlo o vorreste farlo qui o là? Ma non devo fargli la domanda. No, ma per dire... Ma che domanda devo fare? Ma sono contente di essere presa da chiunque? Ma che dite? Ma il solito problema dei radioascoltatori della tua trasmissione, vabbè. Ma come fate a pensare che una donna si faccia fare quella roba per scelta? Tu dagli un lavoro decente, una situazione decente, questo si deve occupare le istituzioni, tirale fuori da quella roba là. Vabbè, Marione, ne parleremo ancora, ne parleremo. I borghesi sono tranquilli, capito? Ne parleremo ancora. Ne parleremo ancora, direttore della Croce, Juventino maledetto! Ne parleremo ancora. Maria Adinolfi, grazie, insieme a Gianfranco Bettin, grazie, e Anastasia Petrella, grazie, consigliere Castelvolturno, ci sentiamo ancora perché questo tema ovviamente manco è iniziato, se ne sta discutendo e pensate se si dovesse fare veramente. 24 mattino. Ciao Italia! E allora sì, siete pronti? Il nostro momento conclusivo, che sta avendo uno straordinario successo, abbiamo iniziato un paio di mesi fa a chiamare ogni giorno uno di voi, una di voi che ci ascoltano e ci seguono dall'estero, e stiamo viaggiando davvero per tutto il mondo. Oggi saluto Chiara, buongiorno Chiara. Buongiorno, oh, bellissima Londra. Vabbè, qui siamo in una delle capitali mondiali, allora, Chiara, sono tantissimi gli italiani a Londra, e tu sei lì per fare che? Io mi occupo di consulenza immobiliare, sono specializzata nel rappresentare gli acquirenti, gli investitori internazionali, per lo più italiani, che vogliono acquistare a Londra. Sono tanti, perché in Italia il mercato immobiliare è molto fermo, e a Londra? A Londra va molto bene, rappresentiamo attualmente i secondi buyer al mondo dopo i russi. Hai capito? Che fascia di italiani vengono però a Londra ad acquistare? Medio-alta, immagino? Medio-alta, sì, perché la barriera d'ingresso è abbastanza alta, quindi sono tanti. Quando si dice a Londra costano tanto le case, è vero, rispetto all'Italia. È vero, però è anche vero che è un mercato trainante, quindi che aumenta di anno in anno a doppia cifra, quindi è un mercato che funziona molto bene. Mi sembra dalla parlata sei romagnola? Emiliana, ecco, subito ho fatto una grandissima gaffa, ho dato della romagnola o un'emiliana. Cugini coltelli di Carpi, e che ci fai? Da quant'è che sei lì a Londra? Sono 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Come... Non tantissimo, no. Però ci avevo già vissuto anni fa dopo l'università. Fantastico. Come ci segui lì da Londra? Bene, è facile. Sì, è facile. Da Londra si sente molto bene. Sì. Cos'è la cosa che hai trovato quando sei arrivata a Londra? Questo lo chiedo a tutti i nostri ascoltatori, che ti ha stupito per bellezza, per dinamismo, per come cosa positiva rispetto all'Italia e magari invece una cosa negativa per cui noi dobbiamo andare orgogliosi. Positive sono tantissime, diciamo che quella che salta più all'occhio è che Londra non è meglio dell'Italia, però qua si respira un'aria, un'atmosfera diversa, c'è più ottimismo e hai sempre la sensazione che tutto possa succedere. E invece un difetto? Difetto è la lottosità delle persone. Lottosità. Ah, ottusi sono. Ma sì, dai, sì, e chi l'avrebbe mai detto a Londra? Insomma, mi avrei detto la città aperta, invece ottusi. No, mi manca la flessibilità mentale che abbiamo noi. Noi siamo abituati sempre ad avere una soluzione alternativa se la prima non funziona, saltarci comunque fuori in qualche modo. Gli inglesi invece sono ottusi di base, sono rigidi, molto rigidi. Salutiamo allora Chiara, te e tutti gli inglesi che ci ameranno dopo questa. Esci di casa e urla tutti ottusi, ottusi. Ti mandiamo un grande abbraccio Chiara, ovviamente da Londra, e saluto tutti, ci ritroviamo domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.